facciamo non solo per noi, ma per fare che la nostra mente diventa anche una fonte di benessere e di felicità per tutti gli altri esseri senzienti. Quindi questo si chiama la mente di bodhicitta, quindi cerchiamo di avere questa attitudine, quindi di mettere in pratica o di cercare di capire, di ascoltare questi insegnamenti, questi sforzi che facciamo per ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Questa dovrebbe essere l'attitudine mentale che dovremmo cercare di generare e di mantenere il più saldo possibile nella nostra mente. Poi in termini del nostro testo, quindi per le persone nuove che arrivano, noi siamo quindi nello studio, cioè stiamo guardando, studiando insieme, sto facendo un breve commentario di questo testo che si chiama La guida pratica del sentiero per l'illuminazione, la trasmissione condensata della spiegazione sulle istruzioni orali di Manjushri, conosciuta come la tradizione meridionale. Quindi come tipologia di testo è un lamrim, non è uno dei 8 grandi lamrim della tradizione Gelugpa, però viene considerato come uno piuttosto cioè importante, viene studiato parecchio. Okay? Quindi il lamrim, come il nome lo indica, lama, sentiero, rim, stadi, quindi sono i stadi del sentiero, vengono presentati i stadi del sentiero. I lamrim sono divisi, è divisi in 3 sezioni, che abbiamo. Le contemplazioni che riguardano queste 3 sezioni corrispondono alla propria maturazione della propria mente, no? Lungo il sentiero, quindi prima si attraversa, si cerca di generare l'attitudine dell'essere di motivazione iniziale e ricerca la felicità nelle vite future, quindi vengono presentate gli addestramenti, le contemplazioni che sono presentate devono essere messe in pratica per far sorgere quel tipo di coscienza, poi si muove verso l'essere di motivazione intermedio che non si soddisfa più della felicità delle rinascite superiori che le percepisce come nell'entità della sofferenza, quindi questa persona ricerca l'emancipazione completa dell'esistenza ciclica. Qui verranno anche presentate le varie addestramenti per far sorgere quel tipo di mente e finalmente troviamo l'essere di motivazione superiore. Desidera non soltanto eliminare la sofferenza nel proprio continuum, ma estinguere la sofferenza in generale. Quindi ricerca il metodo per attualizzare il suo scopo, quindi che è la felicità, la pacificazione della sofferenza nel continuum degli altri. E questo lo realizza che lo stato di Buddha è uno stato che gli permette di compiere questo scopo, che quindi ricerca lo stato di Buddha. E quindi più avanti verranno presentati gli addestramenti per far sorgere quel tipo di mente. Okay? Quindi adesso siamo entrati, siamo ancora lì quasi, diciamo, siamo all'inizio, però siamo entrati nell'addestramento dell'essere di motivazione iniziale. Okay, quindi abbiamo visto il preliminare che riguarda il modo di addestrarsi con la guida spirituale. Abbiamo visto anche che questo addestramento nell'essere di motivazione iniziale è suddiviso in 2 parti. Abbiamo lo sviluppare l'aspirazione a sperimentare la felicità, okay? E troviamo la seconda parte, che è il metodo effettivo per sperimentare felicità nelle vite future. Quindi per ciò che riguarda questa prima parte, che è lo sviluppo dell'aspirazione a sperimentare la felicità nelle vite future, questo è suddiviso in 2. Abbiamo l'insegnamento, la contemplazione sullo sviluppo della consapevolezza della morte e dell'impermanenza, questo l'abbiamo visto insieme. E adesso dobbiamo entrare stasera nella seconda parte del metodo per sviluppare un'aspirazione a ottenere la felicità nelle vite future, che è la contemplazione degli rami e della sofferenza dei rami inferiori dell'esistenza. Okay? Quindi ecco dove siamo stasera. Quindi prima di andare avanti, volevo chiedere se le persone che erano qui l'altra volta hanno dei punti da chiarire rispetto a quello che abbiamo coperto insieme fin d'ora. Se non ci sono, andiamo avanti. E come vi dico ogni volta, questo è strano, però andiamo avanti. Quindi, sì, quindi stasera è un insegnamento molto, cioè, molto difficile, molto particolare per noi, perché non è qualcosa, no? Anche se il buddismo, la sua linea di guida, no? È la logica, il ragionamento, la cognizione valida, questi sono i pilastri dell'insegnamento buddista, okay? Perché il buddismo libera la persona dei suoi attaccamenti, delle sue avversioni, tramite le sue ignoranze, tramite il ragionamento, l'analisi, rispetto all'esistenza, quindi dei reami inferiori, dei reami di sofferenza, anche rispetto all'esistenza dei reami superiori, quindi l'entità della felicità, sono difficili da capire per noi, perché non abbiamo una percezione diretta di queste cose nel nostro stato. Però cercheremo nella prima parte di vedere se possiamo inferire la loro esistenza, no? Sì, possiamo inferire in un modo o in un altro l'esistenza dei reami superiori, e in particolare in questo contesto dei reami inferiori. Okay? Quindi questa sarebbe una parte più o meno introduttiva. Quindi, come l'abbiamo visto fin d'ora, abbiamo visto che abbiamo stabilito la possibilità, o l'eventuale possibilità, di vite passate e future. Abbiamo analizzato brevemente qual è la natura della mente, quindi la sua dinamica, il suo funzionamento, essendo un fenomeno impermanente, dipende da causa e condizione. Abbiamo isolato le condizioni cooperanti, la causa sostanziale, quindi abbiamo visto che un istante di mente è prodotto da un istante precedente. Su questa base abbiamo inferito la possibilità di questa continuità di istanti di mente, quindi di vite passate e future. Quindi poi abbiamo visto che la morte è certa, quindi dovremo cercare di pensare quale sarà la nostra esperienza alla fine di questa vita, quale sarà la nostra esperienza futura, visto che la continuità della mente perdura, c'è, cioè, questa continuità di istanti di coscienza. Dovremmo cercare di cominciare a farsi queste domande, no? Quali saranno le mie esperienze nella vita futura? Quindi, in generale, il contemplare che siamo caduti, è molto importante il contemplare che siamo caduti nell'oceano della sofferenza, no? Perché questo è un antidoto all'orgoglio e all'arroganza in generale. Quindi avere un primo beneficio di riflettere sulla natura di sofferenza, che è molto difficile da fare, perché nessuno vuole essere noi vogliamo solo incontrare la felicità, quindi vogliamo solo sentire delle cose piacevoli, no? È difficile per noi di riflettere sulla morte, sulla sofferenza, sui reami inferiori, perché la nostra mente non piace, semplicemente perché vogliamo solo esperienze di felicità. La nostra mente non piace sentire queste cose, però sono grandi benefici. Il primo beneficio di riflettere sulla natura di sofferenza dell'esistenza è il capire che noi siamo caduti in un oceano di difficoltà, di problemi, di sofferenza, okay? E non passiamo al di là di questo. Quindi il primo impatto è diminuisce un po' il nostro orgoglio, la nostra arroganza rispetto a questa situazione. Il secondo è che, comprendendo che la sofferenza, dopo andremo avanti e faremo il karma più avanti, però l'abbiamo già più o meno presentato, che la sofferenza e felicità sorgono da azione virtuosa e non virtuosa rispettivamente, che la sofferenza ha le sue proprie cause, che sono le azioni non virtuose, e la felicità ha anche le sue proprie cause, che sono le azioni virtuose. Okay? Quindi, comprendendo questo, con questa comprensione, uno cerca di fermare le cause della sofferenza futura, quindi cerca di fare attento al suo atteggiamento fisico, verbale, mentale, okay? Quindi, perché ricerca la felicità, e in questo contesto genera anche una certa gioia, un certo entusiasmo a praticare la virtù, okay? A praticarle, a porre condizioni per esperienze di felicità futura. Questi sono gli impatti che hanno queste contemplazioni sulla mente, okay? Quindi, avendo realizzato il suo proprio stato, è in grado anche di proiettare questa comprensione sugli altri. Quindi queste meditazioni sulla sofferenza sono anche una necessità, se vogliamo dopo sviluppare queste menti di grande compassione, okay? Perché questa propria comprensione viene dopo, se ci è placata, sì, viene dopo, sì, come si dice, riflette, utilizzata sugli altri esseri per lo sviluppo della grande compassione, okay? O eventualmente uno utilizza anche questa comprensione per generare un grande un desiderio di farla finita con questo modo di esistenza, quindi cercare la liberazione. Okay? Quindi sono delle contemplazioni che sono molto importanti a vari livelli, per ogni livello di motivazione, perché servono di gradino. Per poter appoggiare delle contemplazioni, delle stati mentali molto più ampi e più profondi. Però, per ciò che riguarda la contemplazione delle sofferenze dei rami inferiore, lo scopo è di essere spaventato, okay? Di capire l'intensità della sofferenza che esiste in questi stati, e quindi essere spaventati, e quindi ricercare un rifugio, ok? Cercare un rifugio che ci può proteggere di tale esperienza nel futuro. E questa, diciamo, è la pedagogia dietro quell'insegnamento. Okay? Quindi, sì, guardiamo, siamo a pagina, interno dell'outline, è 2B1A2, okay? Contemplazione della sofferenza delle migrazioni cattive. Pagina 29, quindi io ho un altro testo, quindi, ok. Ok, contempla la sofferenza delle trasmigrazioni negative e abbiamo tre divisioni, che sono nella cosmologia buddista, ok? Abbiamo tre reami. Abbiamo il reame del desiderio, il reame della forma e il reame del senza forma. Okay? Il reame desiderio ha varie suddivisioni. All'interno del reame del desiderio troviamo gli esseri umani, che è considerato come un'esistenza superiore. Poi sopra gli esseri umani, all'interno del reame del desiderio, abbiamo i semidei e poi abbiamo sei divisioni di Deva o dei, del reame del desiderio. Okay? Queste rinascite sono proiettate dal karma molto virtuose, principalmente dalla pratica dell'etica e della generosità, eccetera. E poi abbiamo delle migrazioni inferiori, che sono quelle degli esseri, degli animali, okay? Dei quelli che vengono chiamati spiriti famelici, e degli esseri infernali. Okay? Riguardo agli esseri infernali, abbiamo nel buddismo inferni freddi, inferni caldi. Ne abbiamo 8 inferni freddi, 8 inferni caldi, e abbiamo anche 4 inferni circondante, come si dice in italiano? Sì, che sono periferici, grazie, periferici, ok? Quindi vedremo queste cose. E rispetto a, quindi, perché si chiama reame del desiderio? Perché questo corrisponde alla nostra tipologia di mente, dove la nostra propria coscienza ha sete per i suoi oggetti, le varie coscienze sensoriali ricercano i propri oggetti rispettivi, ok? Quindi la coscienza visiva ricerca il contatto con ciò che è visualmente piacevole, la coscienza uditiva ricerca il contatto per i suoni piacevole, eccetera, eccetera, eccetera. Okay? Quindi questo è il reame del desiderio. Il reame della forma, che è un reame superiore, ha quattro divisioni, suddiviso in altre 3 divisioni, 12 più altri 5, quindi abbiamo 17 divisioni. 17 divisioni. Queste 17 divisioni sono attualizzate sulla base di una concentrazione effettiva, nel senso sì, sulla base di questo corpo, no? Questo corpo di un essere del reame del desiderio, attualizzo un certo livello di concentrazione, per esempio, che viene, cioè, presentato in un modo molto preciso, no? Il secondo livello di concentrazione, che ha delle caratteristiche particolari. Allora, produco quello che viene chiamato un karma inamovibile, e alla fine di questa vita produco prendo rinascita nella rame della forma che corrisponda al mio livello di concentrazione attualizzato, che sarebbe il secondo livello di concentrazione. E ne abbiamo quattro in quel modo. E però sopra di questo abbiamo anche il senza forma, okay? Dove il processo è simile allo sviluppo della concentrazione, soltanto che l'essere non ha un aspetto fisico, è solo la contemplazione, la mente si assorbe nella contemplazione univoca di un'idea per molto tempo, quindi abbiamo lo spazio infinito, la coscienza infinita, nullità. Senza discriminazione, non senza discriminazione, vi passo il dettaglio. Quindi questo sono la cosmologia e tutto questo costituisce l'esistenza ciclica, un essere che è vincolato dall'ignoranza, quindi che ha questo fraintendimento rispetto alla realtà e al modo di dimorare dei fenomeni, di se stesso, della propria mente. Quando produce delle azioni, tutte queste azioni sono delle cause, dipendendo dalla loro natura, per prendere rinascita in questi vari reami di esistenza. Okay? E adesso andremo a osservare quali sono diciamo, le esperienze di vita in questi reami inferiori. Vi ripeto, questa è una cosa non così piacevole che dà vari problemi. Ok? Ci sono delle domande rispetto a quello che abbiamo coperto fino adesso? Quindi ci avete a qualsiasi momento, no? Una difficoltà particolare, necessita un esempio, necessita una spiegazione ulteriore, cioè mi potete interrompere, io cercherò nel mio piccolo di chiarire questa cosa, ok? Quindi rispetto all'esistenza, come possiamo inferire l'esistenza di reami inferiori, quindi per quelli degli animali è abbastanza chiaro, no? Però quelli per esempio degli inferni o quelli dei spiriti anaffamerici, come si può cercare, cioè, utilizzando esempi o esperienze nella nostra vita, capire che può darsi, è possibile che esistano questi reami, no? Quindi possiamo distinguere un ragionamento che utilizza dei segni esterni e un altro ragionamento che utilizza dei segni interni, ok? Quindi rispetto ai segni esterni, possiamo vedere che certe volte ci sono delle esperienze incontrate a livello umano che corrispondono a delle esperienze infernali, no? Come vengono descritte nei testi. Allora, per quelli che sono un po' familiari con Dante, così Dante, no? L'inferno buddista è un po' simile alla sua descrizione, molto simile. Quindi, non so se, allora, per esempio, nel buddismo abbiamo visto, no? Abbiamo otto inferni caldi, e questi inferni caldi hanno una crescita di sofferenza, no? Se prendiamo il primo, che si chiama l'inferno Reviving Hell, come viene spiegato questo? Come tradotto? L'inferno del rianimarsi, ok? O del rivivere, questo sarebbe il primo, ok? Quindi in questi inferni gli esseri prendono rinascita e spinti dal karma, delle armi appaiono, delle armi, le prendono e si buttano uno contro l'altro cercando di uccidersi, ok? Questo per molto tempo. Questo è il tipo di esperienza, è continuo in questa sfera, no? In questa dimensione di esistenza. Quindi questo è il primo, e poi ne abbiamo altri fino a essere completamente consumato da un calore, un fuoco intenso, no? Io mi ricordo un po' di anni fa, no? È accaduto un incidente al tunnel del Monte Bianco, no? Dove c'è stato solo persone nelle loro macchine sono rimasti bloccati e sono stati consumati dal fuoco, no? Ecco, questo è tipico, è la descrizione esatta, precisa dell'ultimo, che è l'inferno del grande, che si chiama in italiano, tormento incessante, okay? Dove gli esseri sono sono consumati dal fuoco. Quindi questa esperienza a livello umano, no? Tutte le nostre esperienze, l'abbiamo visto, dipendono da causa e condizione. Okay? Quindi si fanno delle azioni, okay? E queste azioni lasciano un potenziale, una sorta di seme, e quando le condizioni, le cause e le condizioni esterne sono favorevoli, questo seme matura e quindi l'esperienza viene, cioè è un risultato viene sperimentato. Quindi nella sfera umana, anche se il karma proiettante, no? Il prendere rinascita in questa sfera umana è molto virtuoso, le esperienze dopo degli esseri umani è un miscolo, si dice un miscolo? Misto, misto di esperienze piacevole e spiacevole, giusto? Quindi vediamo che abbiamo, che viene chiamato un karma proiettante virtuoso, e dopo abbiamo dei karma completanti virtuosi e non virtuosi, che è quando l'essere umano sperimenta felicità, benessere, eccetera, salute, condizione materiale favorevole. Tutto questo è dovuto al karma completante, virtuoso, e certe volte l'essere umano sperimenta dolore fisico, mentale, difficoltà, problemi, e tutto questo è dovuto a un karma completamente non virtuoso. Okay? Se prendiamo quindi questa esperienza che è accaduta, questa tragica esperienza accaduta al Monte Bianco anni fa, vediamo che abbiamo un karma proiettante virtuoso e abbiamo un karma completamente non virtuoso a quel momento. Quindi cosa è accaduto? Che questi esseri spinti dal karma, no? Spinti dal karma, si sono ritrovati tutti in un posto, avevano un karma molto, c'era una connessione tra queste persone e avevano creato un karma simile, o insieme o anche separatamente. Comunque c'era questo karma che le univa. E queste persone, quindi spinti dal karma, no? Il karma ha fatto in modo che queste persone si sono trovate insieme a un unico posto e hanno sperimentato le loro allucinazioni insieme, no? Insieme. Quindi questo viene chiamato un karma collettivo, no? Abbiamo un karma individuale e abbiamo un karma collettivo. Per esempio, quando andiamo a mangiare, abbiamo un karma collettivo perché abbiamo lo stesso cibo, la stessa apparenza, però la nostra esperienza del cibo è individuale, okay? A certe piace, a certe non piace, questo è il karma individuale. Comunque, l'esperienza comune è un karma collettivo. Quindi, visto che queste condizioni, no, che si trovano all'interno del reame umano corrispondono esattamente a delle esperienze infernali, possiamo anche dedurre che lo stesso tipo di karma che abbia prodotto nel reame umano un'esperienza infernale per pochi minuti o poche ore, no, può essere anche stata creata a un livello dove questo karma non fa maturare un'esperienza di pochi minuti, di poche ore, ma di molti anni, okay? Di centinaia, di migliaia di anni. Cioè, nel senso che il karma può essere così forte, l'azione compiuta può essere così forte, che proietta quel tipo di esperienza non per un quarto d'ora o un'ora, ma per centinaia o migliaia di anni. Okay? Questa è l'unica cosa, l'unica differenza è il potere dell'azione, quindi un'azione che è stata fatta con molta avversione, con tanta rabbia, un'azione di danno all'incontro degli altri, con tanta rabbia, che non è stata neutralizzata da vari antidoti, ok? Col tempo si sviluppa, si sviluppa, si sviluppa, no? Perché questo karma, l'abbiamo accennato, ha un effetto esponenziale, okay? Un effetto esponenziale, nel senso che il suo potere incrementa col tempo e può arrivare che a un certo punto arriva a maturazione e proietta un'esperienza di grande sofferenza per molto tempo, molto molto tempo. Nello stesso modo abbiamo anche la possibilità, la stessa possibilità con le sensazioni piacevoli, no? Abbiamo un karma virtuoso che con tempo può produrre un'esperienza di felicità per molto tempo. Per esempio, questa esistenza umana, okay, è il risultato di un'azione. Un'azione virtuosa, okay, ha proiettato questi cinque aggregati umani. Okay? Questa è un'azione sola. E vedete che il risultato può essere sperimentato su 80 anni. Quindi immaginate, un'azione estremamente virtuosa può proiettare ad un altro livello, può proiettare l'essere a un altro livello di felicità per ancora più lungo tempo. O un'azione non virtuosa può proiettare l'essere in stati di sofferenza per molto tempo. Okay? Nello stesso modo, quindi, questo è sì, quindi, questo è per le esperienze infernali, no? Poi abbiamo anche quello che vengono chiamati gli spiriti famelici, no? Che sono questi esseri che quindi hanno un livello di sofferenza inferiore a quelli dei reami infernali. Sono esseri che hanno oscurazione, ostacoli rispetto al trovare cibo e bevande. Quindi loro passano, hanno un corpo che gli permettono di sopravvivere, di vivere per 500 anni, anche senza trovare il minimo cibo e la minima bevanda. Quindi passano tutto il loro tempo in grande stanchezza alla ricerca del cibo e delle bevande, senza mai trovarlo, senza mai trovarlo. Okay? Quindi hanno un particolare aspetto fisico, però vediamo che anche a livello umano questi possono essere rintracciati, che possiamo trovare delle esperienze simili a queste, no? Meno intense, però le possiamo anche trovare. Okay? Quindi a livello umano avremo un karma proiettante virtuoso e un karma completamente non virtuoso. Però possiamo immaginare che tale azione, okay, avendo più potere, okay, un'azione simile avendo più potere, avrebbe anche proiettato quel tipo di esperienza per molto tempo. Quindi questo sarebbe possibilità di inferire quando prendiamo in considerazione che tutto dipende da cose in condizione, no? Che dopo la nostra comprensione diverrà sempre più vasta, sempre più profonda, quindi prendendo in considerazione la natura vuota di caratteristiche intrinseche di tutte le cose, il fatto che tutto dipende da cosa in condizione, capiremo la possibilità, okay, che queste cose esistono. Queste cose esistono. Stessa cosa per i posti di guerra, no? In Afghanistan, per esempio, sono in guerra da 25 anni, no? Che sono in guerra continua. Quindi questo sono posti nel quale le persone hanno sempre conosciuto la guerra, quindi la paura della guerra, il combattimento, eccetera. E questo sarebbe simile a quello che parlavo prima, no? Questo inferno del rivivere, dove gli esseri spinti dal karma vedono delle armi, le prendono e combattono uno contro l'altro fino all'esaurimento. Quindi questa è una prima possibilità. Avete delle riflessioni da condividere, delle cose? Cioè questo è interattivo, mi piace quando è interattivo. Sì. Come si dice, c'è la possibilità dopo aver sperimentato, diciamo, o un tipo di sofferenza, o un tipo di felicità dovuto appunto alle impronte che si è lasciato, anche se magari questo è dovuto, come hai detto tu, ci sarà un periodo di tempo dovuto all'intensità di quell'azione, di quell'impronta, c'è la possibilità dopo di non sperimentarlo più No. una Allora, volta che si una è. volta che il karma è stato sperimentato, quel karma è finito. Quindi un'azione non virtuosa, no? Per esempio un'azione non virtuosa del uccidere, okay? Motivata da un odio molto intenso, proietta una rinascita negli inferni. Okay? Una volta che questo karma, questa persona quindi prende rinascita dagli inferni, sperimenta la sua sofferenza. E una volta che il karma si esaurisce, che il potenziale del karma si esaurisce, la persona dopo prende un'altra rinascita. Okay? Quindi ogni azione produce diciamo, il suo effetto particolare. Una volta che che il karma si esaurisce, l'effetto si finisce. La stessa cosa nell'esperienza di felicità. Okay? Un'esperienza di cioè un'azione virtuosa produce un'esperienza di felicità. Quando questa azione quando questo karma si esaurisce, l'esperienza di felicità si finisce. Ecco perché, per esempio, certe volte delle persone nell'arco di una vita passano di grande ricchezza a povertà, perché il karma della generosità si esaurisce. O Quindi per accettarlo meglio, diciamo, nel caso di sofferenza, nel caso di sperimentare sofferenza, uno potrebbe pensare sto purificando. esatto, e questo era il discorso che abbiamo avuto l'altra volta, no? C'era questa persona che chiedeva queste cose. Quindi sì, senza andare anche fino a questo livello, cioè anche sì, è necessario comunque pensare in quel modo. La bellezza, cioè l'unico, cioè la bellezza, l'unico fattore positivo del karma negativo è che può essere purificato. Quindi possiamo con delle meditazioni particolari depauperare il karma del suo potenziale di sofferenza, di maturazione. E questo può essere fatto. Se c'era una domanda, Forse appunto, considerando che ci ricolliamo nel samsara da un tempo senza inizio, abbiamo accumulato, immagino, una quantità infinita di semi, diciamo, pronti a maturare. sì. Una volta che il karma proiettante ci pone in una determinata rinascita, mettiamo quella umana, tutto il serbatoio di semi che noi abbiamo accumulato è lì disponibile per maturare, oppure c'è solo una parte di questi semi che, a seconda delle situazioni in cui noi andiamo, è pronto a maturare? Allora, con te al tuo bagaglio di semi karmici pronti da maturare, ok? A ogni istante. Però, per esempio, il fatto che tu sei come essere umano, a quel momento viene neutralizzata per quel momento il karma che potrebbe, cioè viene bloccato il karma di maturazione, viene reso sì, non attivo. Il karma che avrebbe potuto proiettarti in rinascita inferiore o superiore, però al momento della morte questo karma può essere attivato. Quindi dopo, no, allora, no, questo non significa che c'è una fatalità, assolutamente no, non implica il karma, non implica la fatalità, ok? Perché a ogni momento, no, noi possiamo attivare possiamo far maturare vari karma. Quindi, secondo come ci comportiamo, secondo le scelte che facciamo in certe situazioni, possiamo quindi andare in una direzione o un'altra e quindi far maturare un karma o un altro. Capito? È come una catena, è come una catena, no? Di eventi. Quindi, non è che le cose sono predefinite, assolutamente no, niente è predefinito, non c'è una fatalità. Però il come ci muoviamo fisicamente, cioè, verbalmente, mentalmente, a ogni istante creiamo del karma e quindi e facciamo anche maturare karma nuovo. Capito? Quindi certe azioni, dovute a certe scelte, certe azioni, ti ritrovi a far maturare un certo tipo di karma e si è ripartito nell'altra direzione, avrai fatto maturare un altro tipo di karma. Capito? Però è giusto di dire che i tuoi potenziali ce l'hai con te e sono pronti per maturare a ogni istante. E quindi significa che a questo istante, a questo momento preciso, hai anche creato le cause per sperimentare il remo inferiore. È certo, è certo. E sì, guardiamo, e questo quindi adesso ci arriviamo piano piano, e sì, guardiamo anche il come funziona la nostra mente, vediamo che naturalmente scende verso il basso, naturalmente. Nel senso che naturalmente c'è lo sviluppo dell'attaccamento, dell'avversione, dell'orgoglio, della collera, okay? Della belligeranza, del risentimento, okay? Della gelosia, dell'invidia. Queste sono attività mentali che noi, cioè, sono quasi la nostra seconda natura, dovuto a un problema di familiarità. È solo dovuto a questo, dovuto a solo un problema di familiarità. Queste attività mentali, sorgono, c'è una proliferazione di quel tipo di attività mentale, okay? E se invece guardiamo quanti eventi mentali sono indirizzati verso gli altri, cioè quanti altruismo c'è nella nostra mente, quanti pensieri altruistici abbiamo nella giornata, quanti pensieri di amore, di compassione, di equanimità, okay? Quante volte portiamo la nostra mente a comprendere la natura delle cose. Vediamo che sono pochi, pochissimi. Quindi alla luce, e questo è qualcosa che dovete, questa è la nostra responsabilità, la vostra, dovete guardare come funziona la vostra mente, perché se non entrate in contatto con il disastro che è la nostra mente, allora queste cose non ci toccano molto. Però Per due cose. Uno è così si comprende che effettivamente abbiamo creato delle cose della sofferenza futura. Uno. E due, entrando in contatto con l'attività che è un disastro, no? Di questa mente, allora comprendiamo che la felicità nello stato attuale è impossibile. È impossibile. È impossibile essere in contatto con la felicità, sia essere in contatto con la felicità con una mente che è semplicemente dovuta alla vibrazione dell'aria, come delle parole, no? Questa mente può essere resa triste o depressa per settimane, settimane, semplicemente con delle critiche, cioè, la mente genera dell'avversione, semplicemente quando qualcosa di piacevole passa nel nostro campo di visione, la mente già è agitata e sta già correndo dietro agli oggetti. Okay? È impossibile in questo stato mentale che abbiamo adesso, cioè è impossibile sperimentare una felicità duratura, è impossibile. Quindi, se vogliamo essere felici, anche in questa vita, è importante, cercare di pacificare questa mente, di domare questa mente. E se vogliamo essere felici nelle vite future, dobbiamo anche smettere di compiere azioni non virtuose, quindi motivati da queste attività mentali, che producono cose di sofferenza futura. Okay? E quindi incominciare a far l'opposto, produrre cause di felicità futura. Perché questo è il nostro potenziale, no? Abbiamo nelle nostre mani, questo l'abbiamo visto quando abbiamo fatto la preziosa rinascita umana, no? Adesso abbiamo nelle nostre mani un potenziale straordinario, che è quello abbiamo la possibilità adesso di creare le cause della felicità desiderata, quello che vogliamo. Vogliamo essere belli, conosciamo le cause per questo, vogliamo essere ricchi, conosciamo le cause per questo, vogliamo essere socialmente avere un'influenza, un potere sociale, lo possiamo creare perché sono le cause specifiche per questo. Non vogliamo sperimentare tale tipo di sofferenza, possiamo identificare la sua causa. Quindi abbiamo questa possibilità, ok? Al di là di questo abbiamo anche la possibilità di eliminare completamente l'ignoranza e questa attività, diciamo, sofferente della mente, no? Queste varie afflizioni. Abbiamo la possibilità e il potenziale di recidere queste continuità, questi eventi mentali della nostra mente. Dipende solo da noi. Okay? Ho risposto? Sì, praticamente nelle reali senza fuoco, cioè non riesco a capire bene come funziona il discorso. Cioè reale desiderio della forma di senza forma che fanno parte dell'esistenza ciclica. Quando stai alla vetta del reale del senza forma, oppure nel reale senza essere nella vetta, com'è che praticamente da lì si riparte, cioè si cade poi di nuovo nell'esistenza ciclica, ad esempio umana. Ok, perché allora il karma che ti proietta in quella sfera di esistenza, no? Si finisce, okay? Si Si finisce, esaurisce. si esaurisce. Al momento della morte vai, secondo la tua attività, che è la tua attività mentale, al momento della morte, abbiamo visto, no? L'ultimo istante di coscienza di questa vita produce il primo istante di coscienza della vita prossima. Quindi la sua causa sostanziale, quindi il modo in cui la tua attitudine mentale al momento della morte va a attivare il potenziale karmico, vai a pescare a quel momento nella tua riserva di semi karmici. E quindi quando sei all'alto puoi solo scendere. Quindi in generale, queste persone che passano dal reame del senza forma, quando prendono rinascita del reame della forma, in generale. Comunque, al momento della morte vai a attivare il seme karmico, ok? E visto che in questo assorbimento, non hai creato niente di particolare in termini di cause, di liberazione, eccetera, puoi solo andare a pescare in quello che ti è rimasto come semi karmici. Quindi in genere può essere o la stessa cosa o qualcosa di inferiore. Così. Bene. E quindi rispetto, quindi abbiamo visto ci sono dei segni esterni che, sulle quali ci ragioniamo un po', possiamo eventualmente, possiamo capirla, possiamo inferire la possibilità che ci sono delle vite dove le esperienze che pervade questa vita ha le caratteristiche di ciò che vediamo anche alla, in tense, in stato di sofferenza a livello umano, no? Perché l'ambiente è il risultato delle nostre azioni. Noi siamo indivisibili del nostro ambiente, no? Indivisibili del nostro ambiente. Infatti, un'azione completa ha quattro tipi di maturazione. Abbiamo visto il karma proiettante. Il karma proiettante sono cinque aggregati. Okay? Cinque aggregati sono i costituenti fisico-psichici di un essere. Okay? Quindi karma proiettante virtuoso, per esempio, sono i cinque aggregati umani. Okay? Poi abbiamo l'esperienza simile alla causa. Okay? Nel senso che quando si uccide, per esempio nel caso di uccidere, allora un essere umano, allora a livello umano, okay, quando dopo si ritorna a livello umano, il karma ha ancora questa energia, no? E abbiamo malattie e vita breve, okay? Questo è il risultato dell'uccidere. E poi abbiamo anche una tendenza simile alla causa, che ogni volta che si compie l'azione di uccidere, si lascia un potenziale per avere quella tendenza a uccidere di nuovo e a trovare un certo piacere nel compiere quel tipo di azione. Quindi questo è il peggiore degli effetti karmici, se ci pensiamo bene, perché ci lega al perpetuare, quel tipo di azione. E poi abbiamo l'effetto ambientale. Prendiamo il caso dell'uccidere, quindi con l'avversione, eccetera. L'effetto ambientale è un ambiente arido, dove ci sono pericoli, ok? Dove niente cresce, dove la persona ha delle ragioni per essere, diciamo, spaventata, dove ci sono molti conflitti. Questo è il karma ambientale dell'uccidere. Se prendiamo il karma ambientale, per esempio, delle parole che feriscono, ok? Allora l'effetto ambientale è, ci sono molte rocce, è difficile di camminare, è difficile di andare a spostarsi da un posto all'altro, ci sono anche molti cespugli con delle spine, no? Dove la persona si ferisce sempre la pelle, eccetera. Quindi vediamo che, andiamo nei dettagli, vediamo che il karma ha anche la capacità di modellare l'ambiente dell'essere. Quindi un'azione fatte con grande avversione, eccetera, okay? Tutte queste azioni automaticamente creano un certo tipo di ambiente dove tutti gli esseri che hanno un karma simile vanno a sperimentare quel tipo di esperienza. Ecco perché abbiamo la sfera umana che corrisponde a un karma collettivo di azione, abbiamo fatto certe azioni simili che proiettano un'esistenza umana in un ambiente come lo condividiamo noi, okay? Che questo è il risultato delle nostre azioni. Stessa cosa per il reame superiore e il reame inferiore. Quindi siamo indivisibili del nostro ambiente. Ecco perché, per esempio, se vogliamo purificare l'ambiente, dobbiamo purificare la propria mente. Se vogliamo che il proprio ambiente si pacifica, dobbiamo pacificare la propria mente. Purificate la vostra mente e avrete automaticamente un ambiente purificato, perché è indivisibile. Ok. Quindi a livello dei segni interni possiamo trovare anche in certi testi dei autori che presentano ragionamenti basandosi su segni interni e danno come esempi gli incubi. Okay? Cos'è un incubo? Un incubo sono dei residui di potenzialità che abbiamo depositato sulla nostra mente tramite azioni. Okay? Questi residui, queste potenzialità maturano durante il sogno come esperienza di sofferenza, no? non so se avete visto, sono dei residui, residui di latenze di reami inferiori, anche certi dicono. E non so se avete già fatto questa esperienza, ma anche quando all'interno di un incubo si cerca di uscire, non si riesce mai a uscire, se si esce quando la persona si sveglia. Ma all'interno di questo incubo è impossibile di uscire. Questa è una caratteristica dei reami inferiori, come la persona cerca sempre di uscire, in particolare dagli inferni, ma non riesce mai a uscirne. Quindi abbiamo anche questo aspetto, no? Che gli incubi vengono presentati anche come delle latenze depositate, che sono memorie di esperienze nei reami inferiori, anche certi dicono, certi, non trovate in tutti i testi queste cose. Scusa, Sì. latenze o anche ricordi di esperienze Latenze, non ricordi, precedenti di vita? Non ricordi. no, sono delle latenze. Ma latenze che cosa significano? Latenze è un potenziale, un sorto di, una specie di seme che produce un'esperienza mentale. Quindi qualcosa di negativo che comunque io ho fatto. Allora, può essere, allora, abbiamo delle latenze positive e delle latenze negative, sì. In questo caso sì. Ok, sì, adesso leggiamo un po' e andiamo nel testo, no? Puoi leggere, per favore? Gli incaricati. Inoltre, la ragione per meditare sul Dharma della morte in permanenza, qui si è spiegato, è che dopo la morte, come una lampada consumatasi o come un fumo di erba bruciato dal fuoco, una continuità successiva di tipo simile non sorge. Nulla è più idoneo del fatto che certamente si prenderà rinascita. Quell'essere, inoltre, non è andato al di là del rinascere in una trasmigrazione felice o in una trasmigrazione negativa. Grazie, come di qui questo, come l'accennavo accennato prima, no? Quindi abbiamo meditato sulla morte di permanenza, abbiamo stabilito che la morte è certa, che il suo momento è incerto, e che al momento della morte, quindi ci sono, visto che non siamo passati al di là di seta ciclica, perché sfortunatamente, almeno nel mio caso è certo, sono ancora, la mia continuità mentale è completamente pervasa dell'ignoranza, okay? Quindi non passo al di là dell'essere condizionato, delle mie esperienze che sono condizionato dalle mie azioni. E quindi abbiamo due possibilità, non ci sono tre, due possibilità. O la rinascita è superiore o la rinascita è inferiore. Okay? Sono solo queste due possibilità. Non ci si ricorda della causa per rinascere nelle trasmigrazioni felici, la virtù che si è accumulata in passato per una mente felice, né si è certi del fatto se essa è stata accumulata o meno nelle vite precedenti. Ovunque si osservi, si ha ricordi come la dispensa di un re di non virtù. Se il suo risultato è necessariamente l'esperienza di una sofferenza delle trasmigrazioni negative, non vi è differenza se essa accade in questo corpo o se accadrà dopo essersi trasferiti in un altro corpo. Per questa mente che oggi sperimenta la gloria e la ricchezza degli umani e degli dèi, non è certo che da domani essa non sperimenti la sofferenza del tormento incessante. Come dice il protettore Nagarjuna, ogni giorno si ricordano gli inferni caldi e gli inferni freddi. Si deve riflettere sulla sofferenza degli esseri infernali. Inoltre, Quindi qui, sì, quindi noi non abbiamo memoria delle nostre azioni, non abbiamo quindi la memoria, non siamo in grado non abbiamo neanche la conoscenza rispetto alla legge di cause e effetti, non sappiamo qual è la causa di questa esistenza, qual è la causa precisa di questa esistenza, che virtù abbiamo fatto per sperimentare questa vita e queste eccellenze che sperimentiamo ogni giorno. Abbiamo dimenticato questa cosa, e quello che è certo quindi è comunque che compiamo, come dicevo prima, in un modo incessante dell'azione non virtuosa, no? Sì, guardiamo, l'azione non virtuosa, sono due cose che rendono un'azione non virtuosa. Uno è la sua natura, per esempio uccidere è per natura non virtuoso, e qualcos'altro può diventare non virtuoso per concomitanza. Concomitanza con l'afflizione mentale. Per esempio, se c'è avversione, un'azione diventa non virtuosa. Quindi vediamo che nella nostra giornata, nella nostra vita, no? Parecchie delle nostre attività sono o motivate o dalla brama, o dall'attaccamento, o dall'avversione, o tutte queste attività mentali, ok? Quindi queste sono ciascune cause per rinascere in stati di sofferenza. Quindi ogni giorno si creano centinaia, centinaia di karma che alla fine di questa vita hanno la piena capacità a proiettare esperienze di sofferenza. Questa è una realtà con la quale ci dobbiamo familiarizzare. Inoltre, nel momento in cui viene a stabilirsi l'esistenza intermedia degli inferni, il risultato della non virtù accumulato tramite la forza dell'odio nel corpo sorge un'apparenza di freschezza. Si spiega che se si ricerca il calore non appena è cessata l'esistenza intermedia, si rinasce negli inferni caldi. In generale, la superficie inferiore è un terreno di ferro ardente, attorno ad esso vi è un muro di ferro ardente, mentre sia al di sopra che al di sotto vi sono delle lingue di fuoco fiammeggianti e tormentose. Grazie. Allora, abbiamo visto, no, il processo come si muore l'altra volta, abbiamo visto, no, il assorbimento del calore, eccetera, abbiamo visto queste cose insieme. Allora, sia al momento, nello stato intermedio, no? Anche prima dello stato intermedio, quindi leggi, no? Dice, sì, al momento nel cui viene stabilito l'esistenza dello stato intermedio, dei inferni, quindi a quel momento il karma è già stato maturato, no? Abbiamo già pescato e siamo in uno stato intermedio degli esseri inferni. Sì, c'è una sensazione di freddo e la persona è l'essere dello stato intermedio, quindi ricerca il calore, allora è un'esperienza negli inferni caldi. Okay? Sì, invece si ricerca, c'è un'esperienza di caldo e si ricerca, c'è una brama, una specie di brama, no? Di intenso desiderio per la freschezza, allora si prende rinascita di inferni freddi. Okay? Allora adesso entriamo nella descrizione di quelli che sono questi reami, anche se è abbastanza breve. Okay? Quindi manteniamo, non sappiamo se è veramente così, okay? Non si può sapere se è veramente così. Quello che possiamo comunque inferire è dovuto alla legge di causa e effetto, che sicuramente dei reami dove la sofferenza è presente, dove non esistono esperienze di felicità, è possibile. Perché scusate, le non virtù che proiettano, possono essere così intense che per lunghi periodi la minima esperienza di felicità non può sorgere. Questo è possibile, se ci pensiamo bene. È possibile. Nello stesso modo è possibile che ci siano dei reami di esistenza dove per molto tempo una piccola sofferenza non viene sperimentata. Anche è possibile. Okay? Come sono questi reami non lo sappiamo, però tenete in mente, cercate di riflettere, no? Alla legge di causa e effetto, al fatto che tutto è creato dalle proprie azioni. E quindi sì, ci possono essere dei posti dove il karma degli esseri, il karma collettivo degli esseri che si trova in questo posto, è un posto dove l'ambiente è solo fonte di sofferenza. In particolare, Sì, scusate. posso fare una domanda? Sì. Per me un'azione virtuosa è un'azione che, diciamo, è fine a se stessa, un'azione cioè che non viene fatta per ottenere una ricompensa o un premio, no? Quindi è un'azione che si fa tenendo conto soprattutto dell'altro. Ecco, mi risulta strano considerare virtuosa, per esempio, la generosità, Sì. con il pensiero che poi nella vita futura sarò ricco. Ok, bene, molto chiaro. Ok, allora abbiamo detto, no, che una virtù può essere per natura, okay, o per concomitanza. Concomitanza significa l'attitudine mentale che viene presente a quel momento. Allora, la generosità è una virtù per natura. Quindi è definito, quando studieremo il karma insieme, vedremo tutte queste cose. È definito che l'azione di generosità matura come esperienza di felicità, nel senso che come è una causa, la causa sostanziale per il benessere materiale, al di là della motivazione, al di là della motivazione. È una cosa, è quasi meccanico, no? È l'eco di questa azione. Quindi è giusto quello che dici, nel senso che una vera virtù, cioè una virtù, un'azione pura a quel momento, è proprio quando è priva e depauperata di qualsiasi interesse. Ma questo è un altro livello. Okay? Il Buddha, il suo scopo è di esaurire i desideri degli esseri. Okay? Ci sono degli esseri che il loro scopo principale è la felicità nel futuro. Quindi il Buddha ha presentato chiaramente il metodo per ottenere la felicità nel futuro. E quindi queste persone, okay, si seguono la legge di causa effetto, meccanicamente otterranno il risultato della loro azione nel futuro. Quindi si praticano la generosità, si praticano l'etica, okay, si troveranno in situazione molto favorevole nel futuro, al di là della loro motivazione. Infatti sulla santità il Dalai Lama dice spesso, no? se vogliamo essere egoisti bisogna essere anche intelligente, okay? Quindi lo scopo, no? Lo scopo è essere felice, e quindi il Buddha ci ha presentato questa legge, è una legge universale che regge l'esperienza all'interno, no? Le esperienze dipendono da questa legge del karma, no? E quindi dobbiamo anche utilizzare questa legge del karma per produrre delle condizioni favorevoli, e non c'è niente di male a voler sperimentare la felicità nel futuro, non c'è niente di male a voler essere felice, è qualcosa di legittimo. Quindi abbiamo il metodo, dobbiamo utilizzarlo. Dopo c'è un altro livello, no? Un altro livello dove le azioni non sono più motivate solo dall'ottenere la felicità personale, ma sono anche motivati dal rendere felice gli altri, da far qualcosa per gli altri. Ok? Va benissimo, è fantastico. Però, vedo, anche l'altra avrà il suo risultato. Questa avrà un altro risultato, automaticamente avrà un risultato superiore all'altro, visto che la motivazione è depauperato di egoismo, non di egoismo, di autogratificazione, mettiamola così, di autogratificazione. Okay? Nonostante questa prima azione di generosità fatta con lo scopo di sperimentare la felicità nel futuro, avrà sicuramente, e questa è una certezza, il suo risultato di felicità nel futuro. Ma così? Come? Mi lascia incerto. Sì, sì, ma c'è bisogno di rifletterci. È una legge, capito? Cioè, esattamente come... Mi pare che c'è addirittura un sutra in cui il Buddha parla con il figlio, Raula, il quale Raula dice, ma io se devo fare un'azione, però questa azione è finalizzata ad un ottenimento, dov'è la moralità di questa azione? Il Buddha gli risponde semplicemente, tu falla. Mi pare, cioè, non so, non conosco, però c'è... Credo che sia uno dei primi sutra del Vinayana. No, c'è senso. Ok? Queste sono motivazioni diverse. Perché mi sembra... Abbiamo detto, la virtù, un'azione, è per natura virtuosa. Quindi per natura questa azione dà un risultato di felicità. Altri, per natura, danno un risultato di infelicità. Allora, ok, quindi vedi, non hai bisogno di far entrare la motivazione. Sì, per natura, l'azione è felicità. Però, proprio il caso, questo, diciamo, esempio specifico, non so come chiamarlo, della generosità per ottenere una ricchezza futura, a me sembra più un esempio di attaccamento. Ma infatti c'è attaccamento per la felicità all'interno del samsara. Certo, e questo è il primo livello di motivazione. Non stiamo parlando di qualcuno che cerca la liberazione o che cerca l'ottenimento dello stato di Buddha. Ok? Dove la motivazione... La motivazione cosa fa? La motivazione ti permette di ampliare o di variare la maturazione di un'azione. Ma un'azione di per sé ha un'entità virtuosa o non virtuosa. E viene chiamato virtù, si è fonte di felicità, nient'altro. Non è da un punto di vista morale, assolutamente no, non è da un punto di vista morale, non è da un punto di vista religioso. Si chiama virtù ciò che dà felicità, e si chiama non virtù ciò che dà sofferenza, punto. Okay? la tua motivazione cosa fa? Ti permette di ampliare la maturazione di questa azione. Più la tua motivazione è ampia, elevata, altruistica, più la maturazione dell'azione è ampia. Nello stesso modo, più tu fai un'azione negativa, cioè, se tu fai un'azione negativa, la tua motivazione ti permette anche di ampliare l'effetto di questa azione. Più l'odio è presente, è forte, più l'azione pesa e più la sofferenza è intensa. Quindi devi distinguere due cose: la tua motivazione e la natura dell'azione. Dico un'ultima cosa: se questo ragionamento lo facciamo nella vita attuale, no? Senza pensare alla vita futura, sono generoso con Tizio perché così penso che, non so, non domani, ma fra 5 giorni. No, non è tra 5 giorni, la tua vita futura. Sì, appunto, però voglio dire che da un punto di vista strutturale tutte le vite sono uguali nell'esistenza ciclica. Non è che la vita futura ha un valore, diciamo, intrinseco maggiore della vita presente, anche perché se potessimo guardarle con un occhio fuori dal tempo sarebbero tutte sullo stesso piano, credo. Ok. Quindi, allora, sì. Se strutturalmente sono uguali, quel discorso che faccio vale per questa vita come per le vite future, nel dare senso alla mia azione. Sì, però allora non so se ho capito, non so se ho capito bene, però ci proviamo. Allora, in questa vita più o meno hai ottenuto il massimo più o meno che puoi ottenere, nel senso che dal punto di vista hai incontrato, diciamo, gli dharma, eccetera, quindi questo ti permette di creare le cause di felicità futura, di ottenere la liberazione e anche di diventare una fonte di felicità per gli altri, ok? Quindi più o meno per questa vita, diciamo, i dadi più o meno sono stati gettati perché hai una vita umana, eccetera, eccetera. Questa vita umana è una e è molto breve. Okay? Invece le vite future, nel nostro caso, sono ancora quasi infinite. Quindi in questa vita hai la possibilità di produrre le cause di felicità per molte vite future, per assicurarti che tutte le vite future, le tue vite future, sarai ancora in contatto con il Dharma, avrai delle condizioni favorevoli che ti permettono di continuare a praticare, di elevarti in questo sentiero. Quindi le vite future hanno anche la loro importanza, ok? E poi certe vite future sono anche molto lunghe, quindi è giusto che dal punto di vista della loro natura, cioè, non passano al di là dell'esistenza ciclica, ma questo non significa che ti devi preoccupare di mantenere delle condizioni favorevoli per progredire nelle tue vite future. Dov'è la contraddizione? Sì, la contraddizione sta in questo, che diventa virtuosa l'azione, sto parlando sempre della motivazione. Sì, ma abbiamo detto, no? E poi andiamo avanti, no? Sì, sì. Ci sono tre tipi di motivazione. Sì. Ci sono degli esseri quale motivazione è ottenere la felicità del futuro. Quindi è anche giusto che queste persone abbiano un metodo per farlo. Poi ci sono altri esseri che hanno un altro livello di comprensione, quale motivazione ottenere la liberazione, hanno un metodo per ottenere il loro scopo, e poi altri invece che hanno una mente così ampia che desiderano fare gli altri felici, e sì, quindi anche loro hanno lo scopo. Quindi in questo senso non c'è, e al di là di questo abbiamo il fatto che ci sono vari tipi di persone con varie predisposizioni e con varie aspettative, quindi ciascuno deve trovare il suo, il modo per attualizzare i suoi desideri. Qualcuno non ha il desiderio di ottenere la liberazione, però ha il desiderio di essere felice. Quindi anche il Buddha ha rivelato il metodo anche per queste persone. Ci pensiamo, ok? Ok, grazie. Vai. In particolare, via all'inferno del rianimarsi o del rivivere, essendosi impegnati nel pensiero, io rinascerò direttamente in un luogo simile a quello appena spiegato, a causa della familiarità con esso, il proprio corpo rabbrividirà e la propria mente diverrà spaventata e scoraggiata. Quando accade questa rinascita, le moltitudini di esseri senzienti, che lì sono ordinati uno alla volta, colpiscono tale essere con varie armi. A causa di ciò, il suo corpo diviene un composto di 100.000 frammenti e cade svenuto, e così via. Si visualizzi questo fino a quando si sta sperimentando per poi davvero tale aspetto. Poi nel cielo giunge il suono, tutti voi rianimatevi, e così ci si rianima. Si mediti sulla sofferenza perenne dovuta all'essere trafitti da armi e così via, simile alla precedente. Grazie, aspetta, scambiamoci qui. Ok, quindi questo è il primo dei stadi infernali, che okay? Ne abbiamo 8, ok? La differenza tra questi 8, questi sono inferni caldi, è il tempo che si passa, ok? È l'intensità della sofferenza. Quindi più si scende, più il tempo è molto lungo e più la sofferenza è intensa, ok? Non penso che è necessario che le leggiamo tutti insieme, quelle persone, cioè, le potete leggere cioè, semplicemente da soli, ok? Possiamo eventualmente andare avanti, farmi vedere dove saltiamo. Tu guardi, c'è l'ultimo paragrafo prima della strofa 87 CD. Io non ho le stesse pagine di 87 CD, ho scritto. Tu non avrai inoltre, inoltre. Tu non ha, non Leggi vedrai. qui, inoltre, inoltre non. Sopra. Inoltre, non è che questa sofferenza venga sperimentata solamente per un breve periodo di tempo, in quanto la durata della vita può è più breve in questi 8 inferni, che è la lunghezza della vita di coloro che stanno nell'inferno dei rianimati, è di 1620 miliardi. anni umani. Perciò, quando si riflette sul modo in cui dura la vita negli altri, considerando che essa si incrementa progressivamente in un modo esponenziale, come non potrebbe scoppiare il proprio cuore? La lettera ad un amico di Nagarjuna dice: tu non verrai liberato da quella vita fino a quando la tua non virtù non si sarà estinta. In tal caso, si pensi, dato il modo in cui noi attualmente ci comportiamo, come possiamo essere certi che questo non accadrà per un periodo di tempo più lungo di quello? Secondariamente, quando si sta contemplando la sofferenza degli inferni stagionali periferici, si mette, come viene insegnato nella tesoreria del Dharma Manifesto: per tutti e 8 ve ne sono 16 aggiuntivi. Sui loro 4 lati ci sono le ceneri brucianti, i cadaveri decomposti, la pianura dei rasoi e così via, e il fiume. Okay, queste sono le indicazioni degli inferni periferici. Okay. Comunque, quindi il modo di contemplare queste cose abbiamo visto, no? È importante, ci dovremmo cercare di riflettere su queste cose, okay? Far nascere nella nostra mente il dubbio, almeno il dubbio, forse esistono, che. Okay? E eventualmente chiederci quale sarebbe l'esperienza, no? Sì, abbiamo lo stato umano, sì, la vita continua dopo lo stato umano, allora abbiamo uno stato, può essere o di felicità o di sofferenza, no? Quale sarebbe, se guardiamo la nostra mente, uno stato di sofferenza? Quale sarebbe, sì, le mie esperienze, se prendo, rinascita in uno stato di sofferenza, in uno stato, cioè, inferiore di sofferenza. E quindi il modo di meditare non è di leggere e di osservare come di meditare come se forse si osservasse, okay? Quel tipo di esperienza, ma il modo di meditare è di pensare che uno sta effettivamente sperimentando queste cose. Questo è il modo di meditare, ok? Quali sarebbero le mie esperienze se prendo rinascita, per esempio, nell'inferno del rivivere? O nell'inferno del grande pianto, o nell'inferno del grande calore, che è uno utilizzando le scritture, gli esempi che vengono presentati, cerca di sentire quel tipo di esperienza, ok? Lo scopo non è di essere depressi, ok? Non è questo lo scopo. Lo scopo è semplicemente di muovere la mente, no? E di farla abbandonare le cause della sofferenza futura e quindi di ricercare eventualmente un metodo che è in grado di proteggere la persona da quel tipo di esperienze future. Ecco perché subito dopo questo insegnamento viene l'insegnamento del rifugio che faremo la prossima volta, no? Quindi non so se avete visto avete percepito la pedagogia che c'è dopo, che c'è, no? Abbiamo avuto per prima l'insegnamento sulla preziosa rinascita umana, dove la persona prende in considerazione il potenziale che ha, ok? Potenziale. Dopo, subito dopo, abbiamo l'insegnamento sulla morte e l'impermanenza. Quindi questo ha come effetto che questo potenziale non viene messo in, non viene sfruttato tra 10 anni quando siamo in pensione, eccetera, ma adesso, perché il momento della morte è incerto. Poi, al momento della morte, abbiamo due possibilità, o verso l'alto o verso il basso. Qui c'è la presentazione del basso. Quindi lo scopo è un po' di avere un certo timore rispetto a quel tipo di sofferenza, perché non saremo in grado di sopportarlo. Okay? È una sofferenza è difficile da concettualizzare, molto difficile da concettualizzare. Okay? E quindi al momento la persona desidera essere protetta, desidera il non sperimentare queste cose. E quindi subito dopo c'è la presentazione del rifugio. Okay? E subito dopo il rifugio abbiamo la presentazione della legge di causa effetto. Quindi in questa articolazione, no, troviamo il metodo per essere protetti della sofferenza degli anni inferiori e quindi creare le cause per la felicità futura. Okay? Comunque, dopo di questo abbiamo inferni freddi. Viene spiegato che per via della scarsa di calore che appare al corpo, dell'esistenza intermedia di un essere infernale, il pensiero di provare gioia per il freddo agisce come una condizione, a causa della quale, non appena cessata l'esistenza intermedia, si rinasce negli inferni freddi. A causa di ciò, si è circondati su tutti i lati da una catena di montagne innevate. Al di sotto vi sono dei piani nevosi e dei profondi e tortuosi canyon. Al di sopra turbinano bufere di neve e pioggia. Il modo in cui si rinasce in questo luogo, reso buio dall'oscurità, è come il primo. Quindi abbiamo visto prima inferni caldi, quindi potete immaginare, no? Che siete nudi, gettati nel fuoco, no? Quale sarebbe l'esperienza? È quel tipo di esperienza, no? Per molto tempo, no? Molto tempo. E invece inferni freddi, immaginate che siete nudi, buttati sul ghiaccio, nel buio, buio, buio totale, nudi sul ghiaccio, col vento. No, è così freddo che il corpo si crack, no? Ci sono dei, come si chiama? Si spezza. Si spezza, no? Spezza. Quindi un freddo così intenso per molto tempo, molto molto tempo, senza la possibilità di un sollievo a nessun istante. Okay? Questo è l'esperienza degli inferni freddi. Quindi dovete visualizzarvi in questa situazione e dire che effettivamente sarei in grado di sopravvivere, cioè di sopportare quel tipo di sofferenza. Quindi questo è il modo di riflettere su queste cose, no? Lo scopo è quindi di muovere la mente verso l'abbandono della sofferenza, cioè delle cause della sofferenza, no? Quindi dopo, no? Quindi si comprende che questo è il risultato di azione, quindi eliminare le azioni che producono quel tipo di esperienza e spingendo la causa anche eliminare ciò che motiva queste azioni, queste motivano queste azioni che sono le varie afflizioni mentali come l'attaccamento, l'odio, eccetera. Una domanda. Se uno praticamente si terrorizza a leggere queste cose, no? Perché ovviamente dice io non voglio più produrre la causa di questa sofferenza e cerca di appunto parole e mente di gestire, di ottenere al positivo queste vie di uscita. Ma ci sono delle interferenze, no? Ci sono delle persone che ti portano su dei piani in cui la collera viene fuori, la rabbia viene fuori. Allora io mi chiedo, è sempre karma che incontri le persone che ti sollecitano a creare situazioni negative, oppure è sempre parte dei tuoi semi karmici che ti fanno essere afflitta? Allora, prima sì, tu una cosa deve essere molto chiara: se tu ti arrabbi è colpa tua, non è colpa degli altri. Sia Sì, no, però dico situazioni sì, che sì. fanno germogliare sì, sì. questa no, cosa. Perché certe volte dicono, ah, mi fai arrabbiare, bla bla bla. Cioè, se, capita molto sta cosa, no? Allora, se vi arrabbiate, se generate dell'attaccamento, dell'orgoglio, dell'avversione, è colpa noi, è colpa nostra, non è colpa degli altri. Gli altri agiscono solo come condizione cooperante, però quello che non ha controllo sulla sua mente è quello presente. Sì, ma se uno sta cercando di andare verso il positivo sì. e trova queste, cioè sta già lavorando e si rende conto, però prima di arrivare a pulire completamente nel percorso rischia di cadere continuamente. Quindi si trova delle cause cooperanti. Cioè, devi sviluppare la pazienza, no? Cioè, è impossibile mettersi in un posto dove nessuno ti dà fastidio, dove nessuno ti parla male. Dove questo non è il samsara, sì, questo posto esiste, ma non è il samsara, non è l'essenza ciclica. Quindi quando tu ti trovi in un posto dove non c'è nessuno che ti fa arrabbiare, dove tutti ti trattano bene, dove non ci sono problemi, non sei più nel samsara, hai ottenuto la liberazione a quel punto, capito? Sei nelle terre pure o sei nel nirvana, una cosa del genere, ma non sei nell'essenza ciclica. L'essenza ciclica è pervasa di problemi, di difficoltà, di, allora è chiaro che il fatto che tu incontri persone che ti criticano, questo è il tuo caso, che ti trovi in un ambiente dove le persone si conducono in un modo malvagio, è il tuo karma questo, okay? Quindi questo è chiaro, però questo non significa che tu te la devi prendere con queste persone, assolutamente no. Tu devi utilizzare quello che ti è presentato, devi trasformare, cioè con le parole è molto facile, cioè non implica nessuno sforzo della parte mia di parlare di queste cose, farlo è un'altra cosa. Quindi la cosa che dobbiamo fare è cercare di utilizzare queste condizioni esterne come pratica, per respingere i propri limiti, no? Quindi cioè la pazienza, queste cose, no? C'è in Shantideva, nel suo Bodhicharya Avatara, mi dice, no? Che c'era questo esempio dove c'era un principe, no? Che gli piaceva camminare scalzo nel suo dominio, no? E poi un giorno torna e perché aveva una spina nel piede e dice ai suoi ministri, cioè fa una riunione, dice: dovete coprire il giardino di cuoio. Si dice così? Cuoio. Cuoio. Poi ce n'è uno nell'angolo e dice: ma non sarebbe meglio se ti metti un pezzo di cuoio sotto il piede, così puoi andare dappertutto? È così. Le condizioni, cioè cambiare, noi è quello che cerchiamo di fare sempre nella nostra vita: cambiare le condizioni esterne. Dobbiamo cambiare le condizioni esterne per fare in modo che noi ci sentiamo meglio, più confortevole, eccetera. Questo lo facciamo da tempi senza inizio e la nostra mente non ha mai... E guarda dove siamo. La nostra mente è sempre in uno stato disastroso. Le afflizioni sono rampante. Invece di cercare di cambiare l'interno, no? Se cambiamo l'interno, qualsiasi sia la situazione nella quale ci troviamo, le qualità le portiamo con noi. La nostra pazienza la portiamo con noi, il nostro altruismo lo portiamo con noi. Non è che questo dipenda da cose e condizioni esterne. Invece il semplice cercare il sempre cambiare le condizioni esterne cioè non fa niente per la nostra mente. E anzi, per cambiare le condizioni esterne devi sempre entrare in discussione, cioè in conflitti, c'è cioè uno che vuole far così, un altro che vuole far cosa. Cioè accumuli sempre karma in quel modo. È quello che facciamo sempre, no? Cerchiamo di cambiare le condizioni esterne per essere felice, per essere più confortevole, eccetera. Però la causa della felicità, lo sappiamo, non è nelle condizioni esterne, ma come la mente si relaziona con queste condizioni esterne, con queste situazioni, con queste varie persone, no? Questa è la fonte della felicità, la fonte della sofferenza è come la mente si relaziona con l'ambiente, con le persone e le situazioni. Quindi la mente può essere addestrata piano piano e qualcosa, allora, non si fa in 3 mesi o in 3 anni. Sua Santità parla di guardare indietro dopo 30 anni di pratica. Okay, dice, si guarda indietro dopo 30 anni di sforzo e si vede che dei piccoli cambiamenti sono stati operati, però dice che questi piccoli cambiamenti sono fantastici, cioè è una cosa straordinaria, cioè lui chiama dei miracoli, no? Perché questi cambiamenti te le porti con te, no? Invece sì, quindi se siete interessati quindi nella pratica del buddismo, nella pratica spirituale in generale, dovete avere una visione a lungo termine, non avere aspettative, anche che in poco tempo la mente cambia di uno stato di uno stato come attualmente a qualcosa di supernaturale, cioè di molto, cioè di beatitudine, cioè lo stato di beatitudine. Abbiamo il potenziale, che è questa mente può diventare una fonte di beatitudine per sé e per gli altri. Abbiamo il potenziale, però ci vuole tempo. E comunque l'unica cosa che veramente di beneficio è questo. Cioè, questo non c'è, non, ultimamente non c'è nient'altro da fare. Non c'è nient'altro da fare. Quindi piano piano. Però sì, quindi non so se ho risposto alla domanda. Quindi abbiamo inferni freddi, ok? Abbiamo inferni freddi e abbiamo inferni caldi, inferni freddi. Ok. Allora si leggi l'ultimo paragrafo prima delle sofferenze degli animali, per favore. Inoltre, non è che queste sofferenze vengano sperimentate solamente per un breve periodo di tempo, in quanto la durata della vita più breve in questi otto inferni freddi, che è la lunghezza della vita di coloro che stanno nell'inferno delle vesciche, è il tempo necessario che si estingue in 80 cari di semi di sesamo composti dai grandi tre di Magadha, contenuti in un magazzino da cui si estrae un seme di sesamo ogni 100 anni. Pensando al modo in cui la durata della vita negli altri viene moltiplicata per 20, si mediti fino a quanto sorge l'intensa disperazione dell'immersione definitiva. Quindi cosa stai dicendo? Che stai dicendo che la durata di vita negli inferni è paragonata a uno che prende non so quante misure di grano, cioè nel Magadha avevano la misura per misurare il grano, no? Se ne prende, a un certo punto avete un sacco. Ok? E togliete, la velocità è questa, no? Togliete un grano ogni 100 anni, quando è finito il sacco avete finito la vostra esperienza nei inferni freddi. Quindi non so, personalmente non so se questo è da prendere letteralmente o sì, perché di solito, no? Quando siamo nella sofferenza il tempo si espande, non so se avete notato questa cosa, però invece quando siamo nella felicità tutto è molto breve, sempre che tutto va veloce, ma nella sofferenza tutto va lentamente. Però comunque ciò che è sicuro è che la durata di vita in queste sfere è molto lunga. Nello stesso la durata di vita nei reami superiori, no? Per quelle della forma e senza forma, anche quelle del reami del desiderio, è anche molto più lunga di quella umana. Quella umana è una delle più breve che esistono. Infatti, paragonata agli altri, è un battere dei cibi, del cibo, no? Cioè, molto estremamente breve. È il tempo di un fulmine nel cielo, un lampo nel cielo. Questo è. Ok, adesso abbiamo la sofferenza. Questo sarebbe il modo di riflettere, quindi. Si pensa che noi stessi prendiamo rinascita in quel posto e sperimentiamo tale tipo di sofferenza. L'oggetto di meditazione, quindi, è di generare un timore rispetto a quell'esperienza. Questo è il modo di fare, di procedere. Generare un timore rispetto a tale esperienza, questo è quello che va fatto. Facciamo gli animali. Allora, la sofferenza degli animali. Rispetto ai due, gli animali nella profondità degli oceani, quelli sparpagliati sulla terra, quelli che dimorano nelle profondità, che vengono spiegati nei trattati sui livelli di Asanga, esistono al di sotto della superficie dell'acqua del Monte Nero. I vari tipi, non definiti come dimensioni, colore e configurazione, sono ammassati gli uni sugli altri, come un mucchio di grano. I più grandi ingoiano per interi i più piccoli perforano i corpi di più grandi. Altri, a causa della densa oscurità, non vedono neppure le proprie gambe distese e ripiegate. Gli animali che sono sparpagliati sulla terra vengono inseguiti e contro la loro volontà cacciati da cani, animali, da prede e così via. Gli animali domestici soffrono per via di essere uccisi, picchiati e sfruttati. Inoltre, le categorie dei naga sono terrorizzate dalla sabbia calda e da garuda. Le creature più piccole muoiono a causa di condizioni banali e così via. Inoltre, questi esseri hanno la natura di non conoscere cos'è da adottare e cos'è da abbandonare. Poiché la lunghezza della loro vita si estende da quella più lunga, un'eone, a quella più breve, un giorno, non è categoricamente definita. Anzi, quindi la sofferenza degli esseri umani, degli animali, in breve sono cinque parti, no? Il modo di riflettere sulla sofferenza degli animali è di prendere in considerazione cinque tipi di sofferenza. Quindi principalmente gli animali soffrono di ignoranza e stupidità, questo è il primo, nel senso che la loro mente è così oscurata che sono stupidi, cioè un animale ha molto difficoltà a capire tutte le cose, potete cercare di fare dei discorsi agli animali, non è che capiscono delle cose molto semplici, no? Però questo è il risultato karmico, no? La mente animale, la mente essendo associata al corpo animale, a quel punto sperimenta anche le limitatezze di quella sfera e di quella condizione, no? Di questo condizionamento. Quindi hanno una mente estremamente offuscata e soffrono di grande stupidità, cioè sperimentano grande stupidità. L'altro è il caldo e il freddo. Gli animali soffrono del caldo e del freddo. Forse quando pensiamo agli animali pensiamo al gatto, al cane che abbiamo in casa, però questi sono pochi in paragone agli animali, no? Gli animali sono divisi in due, abbiamo quelli che si trovano sulla terra e quelli che si trovano nell'acqua, negli oceani. Quelli che si trovano negli oceani sono molto più numerosi di quelli che si trovano sulla terra, no? Si prende un metro cubo d'acqua, quanti esseri esistono in un metro cubo d'acqua? Quindi in generale gli animali, quando si tratta di calore e di freddo, si prendono in considerazione gli animali salvaggi. Salvaggi. Quindi quando c'è il grande freddo, gli animali sono fuori, sotto la pioggia, non hanno la possibilità di essere a riparo. Nello stesso modo, e quanti muoiono anche di freddo, no? Cioè, tutti gli anni, quando c'era la stagione fredda, gli animali muoiono semplicemente del freddo, perché non hanno la possibilità quindi di essere al riparo, come gli esseri umani lo sono, come i nostri cani, gatti, eccetera. E poi c'è anche il caldo d'estate, no? Quando abbiamo fuori a 34 gradi, come poche settimane fa, gli animali sono fuori, sotto, cioè, e devono sperimentare il caldo. Non hanno la possibilità, dovuto allora alle limitatezze, non hanno la possibilità di, cioè, nel senso, un animale deve attraversare il momento di sofferenza, non ha la possibilità di alleviare, o ha delle possibilità molto minime per alleviare la sua sofferenza. Okay? Quindi il freddo intenso e il caldo intenso, questo è uno. L'altro è la fame e la sete. Quindi un animale che ha fame, cioè gli animali non è che necessariamente trovano quello che hanno bisogno per mangiare, cioè trovano necessariamente dell'acqua per bere, cioè è una condizione molto difficile, molto molto difficile, e molti animali si vedono quando muoiono anche di fame, cioè di fame parecchio, no? All'altro tipo di sofferenza è che gli animali non hanno il controllo sulla loro vita, nel senso che sono utilizzati dall'essere umano. L'essere umano utilizza gli animali per vari scopi, per il lavoro. Quindi adesso, cioè, in paesi occidentali un po' di meno, però pochi anni fa, se andiamo in altri paesi, gli animali sono caricati in un modo molto pesante, tutto il giorno lavorano nei campi e sono anche picchiati. Comunque l'animale viene utilizzato per il suo lavoro, o gli animali vengono utilizzati per il divertimento, quindi molti animali vengono catturati e vengono mostrati o addestrati per il divertimento degli esseri umani. Quindi questa è la condizione degli animali. Non hanno la possibilità di gestire, di controllare la loro esistenza, dovuta a questa condizione. Sono sotto il potere degli esseri umani, che sono più intelligenti. Sono anche utilizzati per cibo gli animali, per cibo, no? Certo, no? La pesca, l'allevamento, le galline stretti stretti per le uova che passano, cioè gli animali vengono allevati solo per essere uccisi, solo per essere uccisi, e sono allevati in condizioni di vite molto molto intense. Non so se avete già visto dei programmi, no? Sull'allevamento delle galline, per esempio. In certe situazioni è incredibile, no? Immaginate passare una vita del genere con quel rumore, con quell'odore, non vedete mai la luce del cielo, non avete mai la possibilità di camminare. Siete lì, no? Sotto il controllo, essere completamente sotto il controllo degli altri. E poi sono tutti altri cioè, allevamenti di conigli, di mucche, di queste cose, che di maiali, che alla fine sono allevati per essere uccisi in condizione pazzesca, no? Perché la sofferenza è molto intensa anche nell'animale quando sta avvicinando questo luogo, perché lo sente, no? Anche dal rumore che fanno gli altri animali, lo sente che va per essere ucciso. Quindi questo è il modo di meditare, questo è il modo di... dovete meditare in quel modo. Dovete pensare che avete preso rinascita, per esempio, come un maiale, qualcosa del genere, una gallina, e siete in queste condizioni. Passate una vita lì in queste gabbie, e a un certo punto siete separati dalla vostra famiglia, dai vostri piccoli, siete messi in un camion, non sapete cosa sta accadendo, siete tutti spaventati, e poi siete portati al posto dove andate a essere uccisi. Immaginate questa cosa, fate questa meditazione, no? Molto importante. E quindi generate questa cosa, no? Di essere spaventato, che perché l'unica cosa che ci separa da quel tipo di esperienza è il respiro. Nient'altro. Il respiro si ferma e abbiamo il potenziale, tutti abbiamo il potenziale per sperimentare quel tipo di esistenza nella prossima vita. Quindi l'unica cosa che ci separa da quel tipo di esperienza è il mero respiro. E quando andate a dormire non c'è nessuno che sta verificando che sta cosa va andata avanti e indietro. C'è nessuno. Quindi il mero respiro, la vita. Sono in vita. Il respiro è ciò che ti mantiene in vita. Il respiro si ferma, tu muori, passi nello stato intermedio e chissà cosa accade. Questa è la nostra situazione. Quindi è molto difficile per noi, molto difficile di poter immaginare una cosa del genere, perché no, siamo esseri umani, siamo così intelligenti, evoluti, sembra molto difficile di poter rigredire, in uno stato animale. Però dovete pensare che tutto dipende da causa e condizione. La mente è un risultato. Noi non siamo la mente. Non siete la mente, non siete il corpo, ok? Noi siamo un risultato che si autoesperimenta. Quindi abbiamo prodotto delle cause che proiettano questa esperienza umana. E quindi c'è la persona che esiste, no? Però queste cause, cambiate le cause, cambiate il risultato. Prendete altre cause e vedrete che la mente sperimenta qualcos'altro. Comunque, bisogna... Questo è molto difficile, quindi ci vuole un processo di familiarizzarsi. Vi dico che la comprensione della mancanza di essenza intrinseca aiuta molto, okay, a capire queste cose. Sì. No, volevo chiederti, cosa si intende per categorie di naga? Naga inteso come serpente? I naga è un tipo di animale. Quindi sono varie categorie di i naga sono... ovviamente io non ho mai visto queste cose, però vengono descritti come hanno il corpo dell'essere umano e il basso è come quello del serpente. Nella mitologia troviamo anche le, come si chiamano, le sirene, che sono le naga. Ma sono percepibili circa noi? Certi essi le percepiscono, si dipendono dalla, cioè io mi ricordo che c'era certe volte, ci veniva a trovare e dicevo, oh, cioè, bisogna far questo, qui ce n'è uno che è arrabbiato, bla bla. Quindi dipende, ci sono certi esseri che hanno queste capacità, sì. E una vita di un animale può durare un anno? Sì, questo è il caso dei naga. Ah. Sono dei naga che vivono per molto tempo. Ok, quindi, sì, quindi questa è la sofferenza degli esseri animali, di essere un animale. E poi c'è l'ultima categoria di sofferenza degli animali, e quella è quella peggiore, è di essere una prega. Si dice una preda, nel senso che gli animali vivono sempre nella paura di devorarsi uno l'altro. Cioè, sono sempre animati di questa paura. Vedete un animale selvaggio, no? Ha questa paura negli occhi, no? Si possono, o anche i pesci, no? Se avete già fatto del scuba diving, non so come si dice in italiano, vedete nei pesci, no? Guardate, i pesci si aggruppano in tanti semplicemente per la loro sopravvivenza, no? E si vede, no? Questo panico negli occhi, quindi vivono, immaginate, no? Immaginate che uscite da casa vostra, ok? E gli altri esseri umani vi saltano addosso e vi mangiano. Immaginate, questa è la loro dimensione di esistenza, okay? Questa è la dimensione di esistenza degli animali. Quindi è un timore costante di essere devorato vivo. È una curiosità, perché per noi contemplare la sofferenza degli animali è tutto sommato più semplice perché gli animali Sì, vivono nel nostro piano di realtà. giusto. E mi viene da chiedermi, ma il piano di realtà degli esseri infernali e degli spiriti famelici Sì. Un'altra è sempre questo in noi che vediamo o è proprio un altro piano, un altro dimensione, stato, un'altra è dimensione, un'altra un'altra che non dimensione. è qui fra noi? No, no, allora Perché i naga sono fra noi, ecco. ci sono, infatti ci sono dei spiriti famelici che dividono anche il nostro ambiente. Gli animali, è chiaro, dividono il nostro ambiente. Allora, rispetto ai spiriti famelici, che non avremo tempo di toccare stasera, sono certi che dividono il nostro ambiente e altri no. Per quello che riguarda gli inferni, non sono nel nostro ambiente. Quello che abbiamo a livello umano sono inferni occasionali, come questa cosa che è accaduta al Monte Bianco. Si chiama un inferno occasionale, dove è una condizione infernale che esiste per un breve istante nel reame umano. Quindi io mi fermerei qui stasera, quindi ci fermiamo sulla sofferenza degli animali. Quindi il modo di meditare, allora lo scopo non è di sviluppare la compassione, lo scopo